Benvenuti. Ah no. Ok. Benvenuti. Benvenuti. Benvenuti a quello che non è il 28esimo episodio del focolare elettrico. O forse sì. Dipende. Ah, partiamo in questa maniera già molto meta, se così si può dire. E come dicevo, appunto, questo potrebbe o potrebbe non essere il 28esimo episodio del Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi e game design. Io potrei essere o no Marco e lui potrebbe essere o no Jacopo, giusto? C'è una possibilità. E in questo episodio, di cui inizieremo a discutere tra poco, come dicevo, o forse no... Sto già perdendo il filo di questa cazzo di gag che volevo fare. Facciamola semplice. Prima andarci a impappinare ancora di più, partiamo con le nostre altre classiche rubriche. Classiche. Jacopo, a che cosa hai giocato questa settimana? Classiche nel senso che gli ultimi tre episodi li abbiamo fatti, ci siamo ricordati. Se sono più di due episodi sono classici ormai. Allora, come ho già detto a Marco prima puntata, devo fare una confessione, ovvero che questa settimana non ho giocato molto. Oh, guarda, questa persona matura e piena di impegni, veramente. Ma che in cazzo? In realtà no, perché mi sono riguardato per la quarta volta tutta The Good Place, che è una serie TV, guardatela se non l'avete vista, perché è stupenda, io piango sempre ogni volta che la rivedo, non so perché la rivedo ogni volta. Quindi si può dire che hai giocato con i tuoi sentimenti, è questo che stai dicendo? Sì. Scusate ascoltatori, vabbè, comunque tu a cosa hai giocato, Marco? Io ho continuato a sfondarmi di Rimworld molto più di quanto probabilmente non avrei dovuto. E non ricordo alla fine se... No, non l'avevamo ancora citato, dicevo appunto che volevo citare... Cioè, ne abbiamo parlato per l'IA, ma non ne abbiamo parlato nello specifico. Ah no, beh sì, di Rimworld, ma io dicevo anche forse di un altro gioco che avevo detto che volevo citare nel podcast e poi mi sono dimenticato nella puntata in cui... Diciamo nella puntata giusta in cui avevo appena finito di giocarlo, che è stato Orwell, un gioco che ho giocato qualche settimana fa, e che mi ha veramente sorpreso con il finale, quindi anche quello lo consiglio a tutto il pubblico. Dategli un'occhiata, è un'avventura non so se può definire effettivamente un'avventura grafica, è tipo visual novel, ma una visual novel, mettiamola così, che dura circa 3-4 ore, quindi lo consumate tutto senza troppi problemi, e ve lo consiglio. Molto bene. Tutto qui, come dire, una settimana molto scialla, si usa ancora questo termine? Tra tutti i ragazzi molto in si usa, ma parliamo del motivo per cui questa settimana per te non è stata scialla in realtà. E andiamo alla nostra rubrica Download Updates. Sigla? No. Non ce l'abbiamo ancora, ci sto lavorando. È un classico, però non abbiamo la sigla. Che dire, questa settimana nel mondo dei videogiochi che cosa è successo, Jacopo? È successo qualcosa di particolare, qualcosa di eclatante, interessante? Perché quello che ho da dire io di sicuro non lo è. Ma proprio. Ma hanno annunciato la remaster di Diablo 2 di cui nessuno sapeva nulla. È stata veramente una sorpresa. Non c'era nessun rumor per gli ultimi 12 mesi. Quindi tutti erano molto stupiti. No, scherzo, beh, lo sapevamo tutti. Non so, cos'altro è successo, Marco? Dimmi tu. Beh, sempre per stare in tema di, come dire, perdite di tempo come questo podcast, non so perché questa battuta denigratoria nei nostri confronti, ma se, quando è stato, mi sembra, giovedì sera, avevate 50 minuti da perdere, la Nintendo ha fatto il suo primo Direct da parecchio tempo, se non ricordo male, da quasi un anno. Non faceva un Direct ufficiale. E che dire di questo Direct? Già. Come dire, se non avete voglia di stare alzati fino a mezzanotte per guardarlo, avete fatto bene probabilmente, perché ha lasciato un po' l'amaro in bocca, chiamiamolo così. Dopo l'ennesimo personaggio di Super Smash Brawl, con gag iniziale simpaticissima, veramente. Che è successo con la gag? Spiegami. È un personaggio che, se non sbaglio, è di Xenoblade, ed è partito tutto questo trailer in CGI, tutto pompatissimo, del tipo sembrava stesse appunto per uscire un nuovo gioco di Xenoblade. Diceva, questo personaggio è scomparso, dove sarà finito? C'era questo ragazzino che diceva, dove è finito? Dobbiamo cercarlo, dobbiamo trovarlo. Tutta musiche sentimentali, panorami, fantasy, strane creature. E invece era successo. E a un certo punto appare e dice... appare il personaggio, dice, scusate se sono andata via senza dire nulla, ma sono stata invitata al torneo di Smash. Quindi... Oh mio Dio! E niente, abbiamo un altro spadaccino, due tecnicamente, non conosco tantissimo la saga di Xenoblade, però sono tipo due personaggi che condividono un unico corpo, una cosa del genere. Molto kawaii, delle nuove waifu per chi è appassionato di Smash Bros. E detto ok, ci siamo tolti anche questo personaggio di Super Smash, diamo un po' di carne al fuoco. Ci sono stati 10 minuti di titoli che venivano, come dire, che sono stati portati su Switch, tutti i titoli già usciti, tra cui anche Campi contro zombie, Garden Warfare. Lasciamo perdere. No, stavo dicendo, ecco, non mi sta già venendo il nome. Oh mio Dio. Mi verrà in mente. Però dicevo, tutti i titoli già o annunciati o già usciti e che stanno per ricevere il porting, fino ad arrivare appunto alle novità. C'è un nuovo Mario Golf. Grande. Carino, certo. Ma, e questo ci tenevo a citarlo, Mario Golf è fatto dalla Camelot Software, non so come si chiamano specificamente, ma una di quelle case che ha fatto tantissimi titoli, però intendo tutti i titoli di sport di Mario, tipo golf, tennis e varie cose, credo che le abbia fatte tutte lei, e tra l'altro ha inventato qua potrei dire una cavolata, non voglio aggiungere altro, però la Camelot è anche l'autrice e produttrice dei titoli di Golden Sun, e quindi questo e quindi questo fa rassegnare ancora di più tutti quelli che aspettavano il quarto capitolo della saga, a dire abbiamo capito che ormai non ci sarà nemmeno quello, grazie mille. Tu mi stai dicendo che Golden Sun, una saga amata da critici e pubblico, è peggio di Mario Golf? A quanto pare la Nintendo la pensa così a questo punto. Bisogna dire che con il terzo capitolo hanno messo proprio l'anima. Hanno ragione. Mario Golf è meglio. Hai visto che puoi andare in giro volando in Mario Golf? Hai idea di quanti miliardari tristi questa cosa questo gioco risolleverà? Cioè... E quello tu dici con la pandemia, tutti quei miliardari che decidono di seguire le regole, che immagino comunque siano pochi, hanno bisogno di un altro titolo di golf per potersi sfogare. Ma sì, perché tutti i loro amici paurosi che ci hanno paura di questa pandemia non vanno a giocare con loro, quindi loro sono tutti soli, capito? Mannaggia. E loro si immaginano di poter volare sull'erba, perché è quello che sono in realtà, sull'erba del campo da golf. Comunque, vabbè. Poi dicevamo, c'è stato Plant vs Zombie Overwatch. Ho scritto già tutta la mia lista completa di titoli sbagliati, ma penso più divertenti di quelli che hanno ha proposto Nintendo. Poi c'è stato Octopath Triangle Emblem. Mm-hmm. Bellissimo. Io sono molto fiero di questo. Cosa, il vero nome è bellissimo, io spero che rimanga quello. Dillo. era Project Triangle Strategy. Ma che... Esatto. È perfetto. Il Marco. Mio falegname con 30.000 lire ti trovavo un titolo migliore, allora, però... Marco, se torni torna al 2004, ok, con la mente. Si avvicina un uomo e ti dice queste due parole, Xenoblade Chronicles. Tu cosa gli rispondi? Cioè, ho 12 anni, signore, per favore non mi faccia del male. I giapponesi sono geniali, sono lascia per... Cioè, Bravely Default, no, Bravely Default, che vuol dire? No? Cioè... In realtà credo che Bravely Default, non per fare il guastafeste, ma penso sia tipo... siano tipo delle mosse. Una si chiama Bravery, no, Bravery e Default, o una cosa del genere dentro il gioco, anche però lì non Marco, ho mai capito. Per favore. Hai ragione, scusami. Stai non volevo. Per favore, non hai ragione. Poi è uscito, poi hanno annunciato Monster Hunter Star Wars, che è praticamente il gioco dei cacciatori d'Italia di Star Wars, che non ho capito. Che non si sa cosa dia. Poi ovviamente, come in ogni non manifestazione, però come dire, ogni sagra del videogioco online, ogni sagra del videogioco online ci deve essere, adesso questa è diventata una nuova regola non scritta, ma ci deve essere un trailer scritto dai boomer per una generazione di cui non sanno assolutamente niente, ed è stato bellissimo questo trailer di... Io ho scritto Dodgeball City, potrebbe anche essere il titolo vero, non mi ricordo se... mamma mia, era un cringe, ma un cringe che non... Andiamo avanti. Giuro, era talmente brutto quel trailer che a un certo punto ho raggiunto lo zen, ed è diventato cioè io per un istante ho creduto... Questo diventerà un grande film, un grande gioco, tutti giocheranno, tipo Fortnite. Per un secondo, è stato bellissimo. È stato come quando abbiamo visto il trailer di Destruction of Stars, o di quel gioco che non mi ricordo manco come cazzo si chiama su Xbox. Tutti questi giochi che vogliono diventare, capito, il nuovo Fortnite, il nuovo, la nuova sensation dell'internet. Come è dire, tutti, hanno tutti bisogno di un sogno, no? In questi tempi difficili. Qua ho scritto The World's End with Club, sempre per fare era un insieme tra The World's End with You e il titolo annunciato che è World's End Club, il club della fine del mondo. E io non lo so, cioè in realtà forse è stato più cattivo di quanto non avrei dovuto. Lì potrebbe essere un titolo carino, interessante. Ma che c'entra il Famicom con tutto questo? Non ho capito. Come? Cioè, qualcuno è morto ucciso con un Famicom? Non ho capito perché c'è Famicom nel titolo. Aspetta, forse era un altro gioco questo, però. Può essere. C'era un gioco che si chiama tipo Famicom, e c'era tipo la versione rossa e la versione blu, come i Pokémon. Però c'era Famicom il nome, non capisco cosa c'entra. Vabbè, penso... Non era una cosa del tipo una collezione di giochi arcade, può essere, con il Famicom? Non credo, penso fosse più tipo una Detective Story barra... Ah no, mi sono ricordato! Simulatore di appuntamenti. No? Sì, quella lì l'avevo rimosso, perché ma chi cazzo se ne frega di queste... sono tipo un remake giapponesi. Di titoli... Sì. Giapponesi, Marco, la risposta è sempre i giapponesi. Comunque, vabbè. Poi uscirà la versione fisica di Hades. Molto bella. Perché va bene. Ci sarà un remake di Ninja Gaiden. Va bene. E ci sarà il Season Pass per il gioco di Zelda, ma quello sbagliato, perché... È vero! È quello Hyrule Warriors. Merda, che è presa per il culo questo... Ok, ora ci sono, ora ho capito. Dopo ti dico. Ci sarà Apex su Switch. Così, perché... Va bene, andiamo avanti. Va bene. E poi io il finale. Ora il finale è da film di Kubrick. Cioè, io non ho so. Ho capito finalmente perché tutte le persone erano incazzate. Perché ho visto questo direct, ho detto va bene, ok, ci sta. No, perché io dai direct non mi aspetto mai chissà cosa. A parte magari appunto se dicono faremo vedere Super Mario adesso, ok. Però è il 35esimo anniversario di Zelda e loro per ben due volte hanno trollato i fan di Zelda, perché prima hanno fatto vedere un gioco con la grafica di Breath of the Wild, che però è Dynasty Warriors praticamente, è il season, è, no, anzi è il Season Pass. E, credo sia tipo anche, e poi se ci pensi è anche stato il secondo Musou che hanno annunciato durante il, perché ce n'è stato uno anche prima, tipo fanno Ninja, aspetta, pausa, Samurai Fighter, una roba del genere. Vabbè, andiamo avanti. Che cos'è un Musou? Aspetta, pausa di un minuto per capire un attimo. Il Musou sono quei giochi dove tu impersoni il singolo personaggio che va a distruggere le armate con i poteri sovrannaturali, cioè praticamente tu singolo giocatore contro una miriade di nemici, e il divertimento sta appunto nello sfondare i culi di queste gigantesche armate e tutti siamo convintissimi che giochi del genere gireranno bene sulla Switch, per cui più che altro, cioè veramente è un concetto di gioco della PlayStation 2, cioè Dynasty Warriors 2 letteralmente Warriors... perché se non sbaglio il nome. Musou viene proprio da un gioco della PlayStation 2 che aveva, che ha introdotto questa meccanica, ma che in Giappone tipo ha spopolato veramente. Comunque vabbè, non solo, e quindi dicevo volta... sì hai ragione, no? Il finale, la, dicevo, la, seconda... la conclusione è stato bellissimo. Spiega, allora, la seconda volta è stata secondo me quella più proprio una presa per il culo, perché è comparso il tizio che sta lavorando al sequel di Breath of the Wild. Yeah, ce l'avevo forse anche scritto come si chiamava da qualche parte, ma forse ma l'ho perso. E ho detto grazie, però andate a fanculo, cioè non abbiamo. Sì, letteralmente ha detto, è stato bellissimo, ha detto salve, sono Tizio Caio, che lavora appunto come creative director al nuovo gioco di Zelda, e scommetto che in questo direct vi aspettavate nuove informazioni su questo titolo. No, abbiamo rifatto Skyward Sword, prendete, godetene. E poi la cosa bella è che, ok, ci sta che non vuoi far vedere nulla perché il gioco ancora non è prontissimo, cioè non ti senti a tuo agio a farlo vedere. So che i giapponesi, specialmente quelli della Nintendo, ci tengono ad aspettare il più possibile per farlo vedere. Io lo rispetto, cioè secondo me è giusta come cosa. Ma infatti però, non mi dà però, tanto fastidio che non abbiano fastidio... fatto vedere. Cosa ti dà fastidio? In fondo, no, come dici tu, non mi dà fastidio che non abbiano fatto vedere il gioco, perché te lo sbattono proprio in faccia. Perché lui ci teneva talmente tanto che durante la presentazione del remaster di Skyward Sword per Switch, che è il gioco prima di Breath of the Wild, diciamo quello per Wii, cosa continuava a dire? No, vabbè, se vi piace Breath of the Wild, vedete che Skyward Sword c'erano delle meccaniche che hanno ispirato molte meccaniche di Breath of the Wild. Io dico, caro, poverino, non ci provare, lascia stare, no? Cioè, nel senso... Perché Skyward Sword poi così come si dice? Lo denigri ancora di più, perché molte persone lo ritengono lo Zelda peggiore. E secondo me non è vero. Allora, io l'ho giocato su Wii, non ho mai finito, infatti penso che dovrò ricomprarlo, ridare altri 60 euro alla Nintendo per giocarci adesso. Ma non era affatto male, l'unica cosa è che era fatto tutto intorno ai controlli di movimento, e per fortuna hanno dato la possibilità ora di non usarli, che secondo me è una mossa geniale. Quindi, cioè, non solo prendi per il culo le persone che magari avrebbero preferito vedere Breath of the Wild, o comunque, cioè, non c'era bisogno di farti vedere, cioè comunque ci giri il coltello nella piaga dicendo vedete, dai, non è così male. Bellissimo, ok. Sì, no, come diceva Jacopo, sarò una persona estremamente venale, ma... La cosa mi ha fatto anche molto ridere la cosa che c'è già il preordine per il remake di Skyward Sword, Sword, non lo dirò mai bene, a 60 euro su Nintendo eShop. Questi sono troppi. E si vocifera che i Joy-Con nello stile di Zelda, fatti apposta per il gioco, tutti quelli con i disegni carini e belli che simboleggiano la spada e lo scudo di Link, si vocifera un prezzo che si aggira intorno ai 90 euro probabilmente, quindi giusto per, come dire, Non, giusto, non per dire che anche la Nintendo si sta un po' troppo forse affezionando ai soldi, tutto era giusto una considerazione mia. E abbiamo concluso, concludiamo in bellezza con Splatoon 3, così, a caso, proprio questo è stato veramente proprio apparso dal nulla, con citazioni, tra l'altro, La città incantata di Miyazaki, così non ho capito bene perché c'era quella scena nel treno. Ah, è vero, sì. E una torre Eiffel ribaltata. Cioè, che cazzo è? Splatoon 3 2022, Marco, quindi ok, Marco, fine. Marco, questa è la tua rabbia che si sta manifestando. Può essere. Perché Splatoon 3 in realtà è una buona notizia, nel senso che... Aspetta, devo pensarci. Allora, è un gioco nuovo. Il motivo per cui è una buona notizia è al prossimo episodio, ascoltatelo. No, cioè, è un gioco nuovo, non è un remake, un remaster, è una serie molto recente per Nintendo, vuol dire che ancora è investito e ancora ci crede, ed è un gioco che non ce ne sono molti come quello, secondo me, perché non è proprio un hero shooter, non è proprio... uno sparatutto, non è proprio un puzzle game, cioè è un po', capito, è un po' unico come tecnologia e anche nel suo genere. Quindi mi piace che abbiano ancora qualcosa da dire, perché di solito quando esce un sequel Nintendo vuol dire che hanno qualcosa in più, capito? Cioè, vero. Di solito, a parte in casi molto specifici come Pokémon, ogni sequel porta qualcosa di meccanicamente nuovo, quindi sono curioso, perché io volevo, in realtà vorrei giocare Splatoon 2, non ci ho ancora giocato, ma In realtà anche lì avevo letto una considerazione durante queste settimane che c'era da fare, non è così importante, ma quello che volevo dire è sono assolutamente d'accordo. Buona notizia che ci sia un seguito comunque di un franchise che è popolare, che è interessante tecnicamente nel suo genere, nella sua nicchia, è anche uno dei più forse ispirati, usiamo questa parola, inteso quello un po' più originale, diciamo, che si possono trovare. Ma penso che la cosa che ha dato fastidio un po' a tutti e sinceramente un po' anche a me è appunto che in 50 minuti di direct della Nintendo che non si faceva viva da più di un anno, forse la gente si aspettava un po' di più. E non lo so, oppure siamo tutti rimasti traumatizzati dal MOBA dei Pokémon a questo punto e abbiamo paura, sai, no, di come quelli che sono vittime di abuso in questi casi. Sarà brutto. Andiamo avanti. Quindi grazie per aver ascoltato il mio nuovo rant sulla Nintendo, questo è il rant 2.0, e direi che è giunto il momento di parlare effettivamente dell'argomento principale di questa puntata. Oppure no? Questa battuta che va avanti da 30 minuti ormai. Come potete notare dal titolo della puntata, che sto per leggere in un inglese che spero non sia troppo maccheronico, che appunto Stanley took the left door. Questo episodio parlerà di quei giochi che ancora una volta, sempre per mio puro piacere personale, faccio fatica a definire giochi, e forse stavolta anche Jacopo è più d'accordo con me. No. E questa citazione, che è stata presa appunto dal gioco The Stanley Parable, e che è una del, come dire, forse è proprio la prima, non la prima, però una delle prime linee di dialogo che il narratore racconta al giocatore, che ci fa intuire che c'è qualcosa di strano durante il gioco, ci è sembrato l'esempio perfetto, no, per rappresentare questa, aperte virgolette, categoria, chiuse virgolette, perché è proprio di questo di cui si va a parlare oggi. Come si può creare una categoria di questo tipo se nemmeno noi sappiamo bene che cosa ci dovrebbe andare dentro, perché stiamo cercando di definire qualcosa secondo tratti che non ha... Cioè, mi sto già perdendo in tutto questo mio dialogo volete, troppo metafisico. Se volete essere confusi, questa è la puntata che fa per voi, più, ancora più delle altre. Perché non sappiamo di cosa stiamo parlando, non sappiamo bene se quello che stiamo dicendo può essere accettabile, se le categorie che abbiamo trovato più o meno sono decenti. Non lo so, andiamo un po' a cazzo sta puntata, vi diciamo un po' di veramente, giochi. E non siamo nemmeno il Parlamento italiano, cioè. Esatto, incredibile. Facciamo un po' una premessa, quindi. Come per il cinema e la TV, ci sono contenuti che sono solo contenuti, ci sono prodotti che sono solo fatti per essere consumati, quindi come può essere un film d'azione, un film... un telefilm della Marvel, cioè qualsiasi cosa che è fatto per vendere, è fatto con un sacco di soldi dietro, è fatto per fare soldi. Ma che direi anche... E magari dentro ha dell'arte, nel senso, magari dentro, non voglio dire che non è valido, non voglio fare lo Scorsese, non sono una persona Scorsese, però ha dell'arte, è comunque valido. Le persone che ci lavorano comunque ci mettono passione, ci mettono un sacco di capacità artistiche e di espressione artistica, ma ci sono invece dall'altra parte prodotti che sono fatti non per essere consumati, non sono dei propri contenuti prodotti, ma sono più delle opere d'arte che vivono un po' al di fuori di quell'ambito puramente economico, o perché sono privilegiati quelli che le fanno, o perché... Non sono fatte proprio dall'inizio con l'intento di vendere, anzi, a volte l'opposto. Quindi... Magari sono fatte ancora da quelle persone che decidono di consciamente di fare questa scelta di, come dire, creativa, fregandosene delle necessità economiche. I famosi gli esecutivi. Esatto, no, diciamo quelli che ancora si sentono ispirati, no? Infatti non a caso molti dei titoli di cui si parleranno oggi vengono principalmente da case indie oppure da sono progetti, prototipi di qualche game jam. Insomma, in poche parole, no, se nelle altre puntate abbiamo parlato di titoli magari un po' più mainstream, che sarebbero quasi l'equivalente dei film della Marvel o del tipico Fast and Furious che esce ogni 2 anni o cose del genere. Magari. Troppo tempo è passato. Questa volta parliamo magari di quei film che vengono portati ai festival del cinema che non vede mai nessuno, quei progetti scolastici fatti da ragazzi che vanno alle superiori, che filmano con il cellulare nel tempo libero, oppure i classici film polacchi con i sottotitoli bianco e nero esistenziali e che non capisci mai cosa sta succedendo sulla pellicola. No? Ti è piaciuta come analogia? Come ci stava, dai, come metafora, come similitudine? Voglio fare anche una nota. A volte parleremo di alcuni giochi che comunque hanno venduto anche parecchio, ma il contesto è sempre di considerare qualcosa che è consapevole delle regole stabilite e delle definizioni stabilite nel mezzo, quindi sa cos'è un film, in questo caso sa cos'è un videogioco, ma non gliene frega un cazzo fondamentalmente. Per cui noi abbiamo presentato, cioè vogliamo presentare 4 categorie in cui ovviamente non tutti i giochi che presenteremo entreranno perfettamente, però ci sono 4 categorie di cui sarò sincero, almeno io non sono nemmeno del tutto sicuro siano giuste come categorie. Sono 4, come dire, 4 tentativi di categorizzare questi giochi non giochi. Mm-hmm. Abbiamo giochi minimalisti, ovvero che hanno le funzionalità interattive ridotte all'osso, spesso ridotte a solo un input, spesso non necessario, quindi giochi che sembrano fatti da quella divisione estremista di Apple che vorrebbe togliere anche la porta USB e lo speaker e lo schermo e lasciare solo un blocco di alluminio. sono giochi che di solito rimangono un po', come dire, un bel esperimento, no? Perché appunto il loro essere minimalisti limita la loro rigiocabilità, limita spesso quanto in profondità possono andare. Non dico come significato, ma dico proprio come meccanica. Quindi tendono un po' ad essere solamente degli argomenti di conversazione più che dei giochi che giochiamo spesso. Per fare un esempio, no? Stiamo già facendo fatica a spiegare le categorie. Esatto. No, però per fare un esempio, avere Mountain è un gioco, questo faccio l'esempio per presentare la categoria, poi ne ce ne saranno altri, dove tu hai una montagna che nel tempo cambia. Puoi fare delle cose, tipo puoi rotarla, puoi suonare della musica, però è una montagna. Cioè, sta lì, è una montagna. E questi sono i giochi minimalisti. Poi abbiamo esperienze interattive. Queste esperienze interattive sono, come posso dire, un passo superiore come interagibilità rispetto ai minimalisti, nel senso che richiedono più partecipazione, ma la partecipazione è comunque a basso, cioè è richiesta poca abilità, è richiesto poco tempismo, è richiesta, non fa una grande richiesta dal giocatore, richiede solo che il giocatore ci sia, non che bravissimo, hai tolto le parole di bocca. È che comunque è fondamentale per essere interattiva come esperienza, ma si concentra più sulla parola esperienza che sulla parola interattiva. Quindi abbiamo tutti i simulatori di camminata, o molti simulatori di camminata, perché non tutti magari rientrano solo in questa categoria, dove semplicemente tu cammini e hai una storia che si dipana mentre cammini. Abbiamo Everything, e vabbè, poi abbiamo anche altri esempi, faremo più... Teniamoceli per dopo, poi. Sì, esatto. Poi abbiamo Virtual Reality, la realtà virtuale, alcuni giochi in realtà virtuale che hanno fanno un ulteriore passo, no? Siamo al terzo passo in avanti in fatto di interattività, perché non richiedono solamente che tu sia presente come nelle esperienze interattive, ma richiedono anche un minimo di gioco di ruolo, lo vorrei chiamare, cioè sono giochi che non sono comunque super mega ansiogeni, super mega rocamboleschi, però ti richiedono che tu partecipi attivamente alla scena che si presenta davanti a te. Farò un esempio, vabbè, dopo. Poi abbiamo l'ultima categoria, che è quella più interattiva di tutte, forse troppo, che è quella che è la preferita di Marco, che mi sta convincendo ad accettarla come una vera categoria. Sono onorato. Ci sto, cioè, perché se siamo d'accordo che la mago categoria è il videogioco e questa è una sottocategoria, queste quattro sono sottocategorie di una zona, diciamo, un po' punk del videogioco. Allora sì, però questa quarta categoria è appunto quella Minecraft, no, quella dei videogiocattoli che avevamo già citato in altri episodi, e che io non so, io mi sento ancora di combattere, di argomentare per la loro esistenza. Stai calmo. Vediamoci, no. Detto no, questo, vabbè, cosa sono però? Ah no, giustamente, videogiocattoli. Beh, questo perché ovviamente non volevo ritornare su argomenti che sicuramente il pubblico avrà già ascoltato, essendo 20 un dai, 20 secondi, cazzo. Giustamente, faccio per Jacopo, ma per Jacopo, per appunto, e dicevo, i videogiocattoli sono quei giochi, sempre videogame, che però non contengono regole, non contengono tanto degli obiettivi, delle quest da completare, ma ti forniscono solo dei sistemi, un mondo di gioco che ti lascia libero di interagire con esso nel modo in cui più tu preferisci. L'esempio classico che è stato fatto e rifatto su questo podcast è Minecraft, dove se non si conta tanto la modalità survival che è stata aggiunta dopo, eccetera, eccetera, nella sua forma originale, era questo gioco di costruzioni, quasi un Lego virtuale. E come dicevo, ce ne potrebbero essere altri, almeno un altro, e forse anche Jacopo ne ha qualcuno in mente, ma sì, di nuovo, vabbè, andiamo con ordine. Parlavamo appunto dei giochi minimalisti. Sì. Non so, vogliamo cercare di dare una definizione più precisa, più... o partiamo direttamente con gli esempi. E tu avevi citato un gioco subito, Mountain, che effettivamente è un esempio, penso sia la rappresentazione fisica, anzi virtuale, di questa categoria, no? Questa montagna, questo pezzo di terra che fluttua in questa finestra aperta sul tuo desktop e... è letteralmente, sembra, penso che anche l'autore l'abbia definita così, era quasi come quella una di quelle piantine che metti sulla scrivania dell'ufficio, no? Che lasci lì a crescere, che la lasci prosperare nel suo piccolo spazio e che tu semplicemente di tanto in tanto ti godi, ti la annaffi, ti dai, te ne prendi un po' cura, però... Un bonsai, sì, sì. Esatto, sembra... È una cosa estremamente particolare, e d'altronde il tipo che l'ha fatta... È un tipo molto particolare. È un tipo molto particolare. Tra l'altro era in collaborazione con la Double Fine, o sbaglio? Sì. Pubblicata in collaborazione con la Double Fine Production e sviluppata da David O'Reilly, un artista irlandese. Molto matto. Abbastanza. E, che poi verrà citato di nuovo nella seconda categoria con un altro gioco. E ci tenevo un attimo a fare una piccola... Prego. Una piccola digressione. I giochi minimalisti come questo, noi li abbiamo definiti dal punto di vista dell'interazione. Perché, cioè, su una scala da molto, diciamo, bassa manutenzione a molto alta manutenzione, Mountain è quello che ha bisogno di meno manutenzione di tutti, perché è un gioco che tu lo fai partire e potenzialmente finisce lì. È una cosa più meditativa che interattiva. Certo. Però comunque ha delle componenti di interazione, ha delle componenti di reazione a te stesso. Quello che volevo fare è la distinzione fra questo tipo di minimalismo e il minimalismo artistico. Cioè, esistono videogiochi che dal punto di vista grafico sono minimalisti, ma dal punto di vista di gameplay non lo sono. Mm-hmm. Tipo Thomas Was Alone. Thomas Was Alone sembra minimalistico, ma in realtà è pieno di storia, personaggi e meccaniche, anche se non sembra, perché è un platform, secondo me, completo, perché ha una meccanica di ha una meccanica di salto che sembra banale e semplice, ma in realtà non lo è. Come non lo è per Celeste, ci sono tantissime cose che non ti rendi conto, ne abbiamo già parlato. C'è una storia, ci sono dei personaggi con delle personalità. È un gioco che ti fa affezionare a dei rettangoli, perché sono solo dei rettangoli. Ma è minimalista appunto solo nella grafica. Esattamente. Volevo fare questa digressione un attimo. Scusa. Sì, hai assolutamente ragione, perché il minimalismo, come dicevi, sta nella grafica, ma non in tutto il resto, mentre qua parliamo veramente di giochi in cui a volte, in cui neanche raccontano una vera e propria storia, ma cercano magari solo, invece di una storia, ti vogliono dare solo un concetto, oppure delle sensazioni anche, più semplicemente. Un altro gioco che ci azzecca tantissimo in questa categoria, sempre, anche qua devo ricontrollare, ma forse anche lì fatto in collaborazione con la Double Fine, se non sbaglio, un gioco chiamato Kids, di, adesso lo trovo, no, aspetta, mannaggia Google, Kids, che è questo gioco in bianco e nero, che di cui non come mi stavo... Praticamente la storia è che volevano fare, secondo me, un'installazione in un tipo di in un museo. Poi detto, così con questa cosa ci possiamo fare un gioco, e quindi ci hanno fatto un gioco, basta. Cioè, è davvero, sembra una di quelle, di quei disegni, di quelle opere d'arte in bianco e nero che ti rendono, cioè, sono inquietanti, ma anche, non so, stranamente accattivanti. È tutto molto semplificato, tutto bianco, con questi personaggi, tipo delle stick figure, no? Cioè, delle persone molto stilizzate. E l'unica cosa che fai è premere col dito o col mouse, vabbè, e farle cadere in dei buchi, praticamente, o spostarle. Cioè, tutto il gioco è tu che fai cadere persone in dei buchi senza fine, o fai muovere persone in delle direzioni, oppure gli fai battere le mani, tipo fare la ola. È tutto così. Ed è bellissimo. È quella che... Vedi, siamo in un esempio in cui è difficile quasi definirlo un gioco a volte, perché a me la parola che mi verrebbe più naturale in questo momento è un'esperienza, no? Per voler fare ancora più il pomposo, il sapio. Questo non è un gioco, è un'esperienza, Jacopo. È questa specie di nuovo giocattolo interattivo, virtuale, che ti presenta questa narrazione, se così si può definire. Molto astratta. Nel quale uno ci può leggere varie cose, però se uno non è proprio un pezzo di legno, qualcosa ce lo legge. Anche solo per come il nostro cervello può associare vari elementi ad altri. È impossibile magari non vederci qualcosa di più. E l'autore, questo Mario von Rickenbach, spero di averlo letto bene, del quale ho cercato su Google adesso e non c'è tantissimo su questa persona, perché io non ho trovato niente, però un altro di quegli artisti che ha fatto queste collaborazioni insieme alla Double Fine, come David O'Reilly di prima, e che appunto ha proposto Kids nel 2019, ha fatto un altro gioco con lo stesso stile grafico e allo stesso modo inquietante e difficile da leggere, di, come dire, infinitamente reinterpretabile, chiamato Plug and Play. E questi veramente sono un paio di giochi unici nel loro genere, che non saprei fare associazioni con altri titoli. Davvero delle esperienze, come hai detto tu, sono delle cose che non, secondo me non puoi spiegare. Anche guardando il trailer non rende idea, perché non c'è niente di più di quello che il trailer fa vedere di questi due giochi. Tra l'altro io Plug and Play ancora devo giocarci, ma l'esperienza di giocarci è una cosa che, se ti lasci prendere, è quasi zen, quasi trascendente. È una cosa molto strana da descrivere. Volevo chiederti, tu cosa ci hai visto? Visto che ormai siamo in questo episodio sapio, rinunciamoci. Che cosa ci hai visto in Kids? Dovevamo chiamare Roberta, mannaggia, esatto. Non ci ho pensato. Perché davvero è un gioco da 10 minuti, cioè dura tipo mezz'ora. Esatto, ci ho giocato un po' di tempo fa e il mio cervello ovviamente ha già rimosso un po'. Però mi ricordo che quando ci ho giocato si è provato qualcosa, no? C'era questa sensazione di... Non so, sembrava quasi un ragionamento su... La sopra sparare grosse, su... Io ci ho visto un po'... Un po' la domanda del... Perché siamo qui, no? Quelle classiche un po', nel senso, alla fine... Siamo stati un po' buttati su questa terra, per così dire, e un po' come appunto vedendo queste strane figure in cui noi un po' ci giochiamo come se fossero pupazzi, come se fossero strani animaletti, e allo stesso tempo ti chiedi se effettivamente no, un po' forse ti ci rivedi, sì, in queste figure, sì, un po'... Ecco, sto facendo la... mi stai facendo fare viaggi mentali, però no, è stato in certi momenti anche un po' toccante come cosa, ti faceva riflettere, no, sull'esistenza, sul tutto. E di nuovo, non conosco l'autore personalmente, ma immagino fosse più o meno quello il sentimento che voleva far pervenire con questo gioco, no? Far riflettere un po' anche sul perché siamo qui, sul perché qualcosa nasce. Non tanto. Quindi, secondo te, quella scena di tu che fai scorrere degli omini nell'esofago, perché siamo qui, perché siamo nati, dove va il cibo quando lo mangiamo, ma il cibo sono persone. Più che quello, forse è del tipo, alla fine noi, se ci pensiamo, effettivamente siamo venuti fuori così, quindi più o meno così, per cui ti viene da chiedere anche, ti senti un po' piccolo nell'insieme delle cose, no? Nel vedere questa quantità di figure, personaggi che vengono sparati fuori, o almeno così quello che ci ho visto io, e ti fa riflettere sul quanto tutto forse è un po' meno importante di quanto non vogliamo, di quanto non ci convinciamo sia a volte. Sei fortunato, perché l'autore di quel gioco è qui! Non è vero, non è entrato nessuno su Discord. No, cioè, oh my god! Magari il senso del gioco era una presa per il culo per chi vuole trovarci un senso, però davvero mi ha lasciato l'impressione di un gioco che aveva qualcosa da dire su la pressione sociale, sulle convenzioni sociali, sul fatto di dove nasciamo, su come le azioni degli altri ci influenzano, tutte quelle scene dove tu puoi influenzare l'andamento di un gruppo di persone, puoi cambiarlo, puoi metterlo insieme, puoi far cadere le persone, come ne cade una cominciano a cadere sempre più persone. Tutte quelle scene lì mi hanno dato molto una forte sensazione di fare un commento su uscire dal conformismo, uscire non dal conformismo, da non lo so. Non so bene definire quello che mi ha fatto provare. Mannaggia, vedi, noi adesso stiamo cercando di fare un po' tutto quello che alla fine sta l'essere umano sta provando a fare un po' dall'alba dei tempi, no? Stiamo cercando di spiegare l'arte. Come si fa a spiegare il quadro, un quadro, quindi in un museo, una statua, cose del genere? Si nel studia. Senso, appunto, noi siamo due ignoranti, permettimi, siamo due tizi qua che la domenica pomeriggio fanno questo podcast. È vero. E allo stesso modo, ecco, credo che sia esattamente quello che questi giochi, almeno questi giochi in particolare, che effettivamente forse proprio per questo potrebbero sfociare anche nella un po' nella seconda categoria di cui avevamo parlato, perché mentre Mountain sì, è rilassante, così non ti fa pensare così tanto, non ti fa provare quello che provi giocando Kids, secondo me, ed è per questo che magari potrebbe stare molto al limite anche con la seconda categoria delle esperienze interattive. Ma dicevo, appunto, sono quei videogiochi che si allontanano di più dal concetto probabilmente del gioco in sé e si avvicinano forse a quello un po' più classico di cui si vuole dare di solito a un dipinto, una scultura, una forma d'arte appunto più classica che ci viene in mente, che è una delle prime cose che pensiamo quando pensiamo a una cosa del genere, no? Quando tutti ti dicono che vedendo un quadro di Van Gogh o di Pollock o chi che sia, dicono, vedendolo dal vivo ti fa provare qualcosa, ti dà qualcosa quando il viverlo, il vederlo. Io non so che dire, a me è successa la stessa cosa giocando a questi giochi, cioè giocando a queste esperienze. Io ho provato qualcosa, io ho sentito le rotelle che giravano all'interno della mia testa. Ed è per questo che, come dire, dicevo appunto, questi videogiochi si allontanano più dal concetto di gioco, di divertimento, di intrattenimento, magari per andare più verso quello di qualcosa che ti fa riflettere, che ti fa ragionare, che ti fa provare appunto cosa. Per me la cosa di riflettere e ragionare è giusta, ma è più quello che hai detto su provare qualcosa, perché un quadro di Pollock o anche un'opera d'arte, una musica in generale, ti fa provare qualcosa pur con un livello di astrazione infinito. Nel senso, guardare un film che parla di soldati nella seconda guerra mondiale che hanno protetto un villaggio e poi si ritrovano quando sono vecchi, non so, mi sto mischiando cose, però che parla di un evento realmente accaduto o di una serie di eventi che sono facilmente riconducibili alla realtà e ti fa provare qualcosa, è difficile, ma secondo me è più associabile a un prodotto. Raccontare una storia, seguire delle convenzioni, comunque avere dei temi, non voglio dire che è più facile, ma siamo più abituati ad esplorarli, siamo più abituati ad interpretarli quando sono facilmente comprensibili. Guardare un quadro di Pollock e provare qualcosa è più, secondo me, è magico, nel senso è più inspiegabile. Non voglio dire che sia superiore, perché in realtà io non sono un grandissimo fan dell'astratto di queste cose, però comunque non posso negare che qualcosa come Mountain, che è un po' meditativo, è un po' riflette te stesso, qualcosa come Kids, che magari è meno meditativo, ma è comunque, come abbiamo già dimostrato, una riflessione delle tue delle cose che ti prendono, che ti piacciono, che le tue problematiche interne, o che è molto affascinante, è molto anche dimostrativo di un procedimento, insomma, di un processo di maturazione di una forma d'arte, secondo me, riuscire ad averlo, riuscire ad avere una versione quasi completamente priva di elementi riconoscibili e comunque riuscire ad avere una reazione. Voglio dire, aspetta, sto per dire una... Aspetta, fammi dire una cosa... Non ho detto sabbia. Niente, fai pure. A decostruire, destrutturare. Riuscire ad avere... Questa scissione, oserei dire. Non solo avere una metanarrazione, parlare di videogiochi nei videogiochi, ma anche proprio avere qualcosa che non sembra neanche un videogioco, che forse non lo è, come stiamo discutendo. E quindi, no, è molto figo. Sai cosa? Penso che... Ci stavo pensando adesso, ed effettivamente... Credo che una cosa, non dico necessaria, però che sicuramente fa funzionare meglio il tutto, questo processo, forse è proprio la loro dimensione, no? Sì. Nel senso che quando togli tutto ciò, questa sta venendo fuori una frase bella, quando togli tutto ciò che non è il significato, e ti rimane solo l'essenza pura, diciamo, quel concetto oppure quel qualcosa che vuoi cercare di trasmettere al tuo osservatore / giocatore, rimane tutto diventa tutto molto più impattante alla fine, no? Perché se ci pensi, noi riusciamo a descrivere questa cosa, è molto più facile descrivere questa idea utilizzando, appunto, come dicevamo, dipinti, statue, cose più piccole rispetto magari a quello che è un film o un libro. Infatti ti verrebbe quasi da dire che è più facile trovare questa cosa in una poesia che in un romanzo di 400 pagine. È più facile un corto di un film, è più facile... È più facile quasi una scena che un film intero, oserei dire. E quindi questi giochi minimalisti che sono quasi scenette, piccole cose che durano, come dicevi, una decina di minuti, sono il mezzo perfetto per uno dei nuovi mezzi, cioè, no, perché alla fine lo si faceva fin dagli albori con i dipinti nelle caverne, però adesso che abbiamo i computer, perché non farlo anche con videogiochi e Unity? Detto una cosa molto vera, prima di drammatizzare parlando di cose pratiche e realistiche, volevo un attimo mettere il punto, perché secondo me hai colto nel segno. Molti di questi giochi sono fatti per essere assorbiti e completamente... Sai quando guardi un quadro e lo guardi nella sua totalità? Perché non stai più guardando un dettaglio, ma stai guardando tutto il quadro. quando ascolti una piccola, una veloce canzone e non cioè rimane un po', è come se ti passasse attraverso, non in senso negativo. Secondo me è molto importante, è il motivo per cui troverai più cortometraggi che film di questo tipo, sperimentali. Ci sono sicuramente film di attore in Inuit con sottotitoli in norvegese, che sono tutti artistici e strani. Però è più facile sia resistere e mantenere la concentrazione, sia in senso positivo, secondo me, assorbire la totalità di un'opera se è contenuta. Mm-hmm. Che non... Come fai a tenere tutto un quadro che è grande quanto un museo? Come fai a tenere in mente tutto un film che è lungo 3 ore? Cioè, può essere per carità un'opera d'arte, però secondo me è più facile, è più pungente, come dici tu, togliere tutto finché non rimane solo una cosa, solo un significato, solo una sensazione, che è quello che fanno molti di questi giochi. Quindi, secondo me hai detto una cosa molto molto vera, molto interessante. E la cosa che volevo dire, perché mi sento in colpa che ora è tutta una cosa sapio, è che recentemente l'altra cosa che dici tu appunto è che c'è Unity, c'è Godot, c'è Unreal, che sono tutti gli strumenti di sviluppo dei software che aiutano moltissimo artisti indipendenti, perché hanno tantissimi tantissimi strumenti e tantissime risorse che prima non erano disponibili per sviluppatori indipendenti, quindi hai più flessibilità in quello che fai, hai bisogno di meno persone, di meno tempo, e questo ti apre molte più, appunto, puoi fare più esperimenti essenzialmente, cioè. Non mi stupisce che Kids sia stato fatto da una o due persone, insomma, un po' perché è corto, ma un po' anche perché ora lo puoi fare, cioè puoi fare un gioco famoso, un gioco di quel calibro, perché comunque è molto ben polished, diciamo, anche se però poco, pur essendo una persona sola, insomma. Io, se a questa puntata Roberta non ci lascia un commento, mi incazzo. Io lo dirò. Eh sì, perché non voglio dire che siano argomenti personali, in senso argomenti che solo quella persona ha, ma se è solo una persona a portarli, ad avere la sua voce, sembrano più sinceri. Come ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già parlato 30 volte di Naughty Dog e di avere più persone che lavorano un gioco. Beh, penso che questi, come dire, queste cose qua è difficile. Vedi, pensa a te, stiamo in 2 persone qua e stiamo facendo fatica ad esprimere un singolo concetto come queste cose. Pensa a cercare di mettere insieme un gruppo per fare una roba del genere. Sono giochi estremamente personali quelli che stiamo descrivendo qui. È difficile che si possa, che siano più persone insieme a farle, almeno secondo mia modesta opinione. Ma prima di andare avanti, come dicevo, farei anche altri esempi di queste cose. Ho visto che qua tu hai annotato nella categoria Systems Nominal e TWA. L'ho tolto perché, cioè, va tolto perché Thomas Fosalon, come ho specificato, non è... Ah, ok. Non avevo colto l'acronimo. Systems Nominal, ora che ci penso, è un po' borderline. Nel senso che non è un gioco, tra virgolette, rilassante, non è un gioco completamente minimalista, però volevo citarlo perché è un gioco che nessuno conosce, giustamente, essendo fatto da uno youtuber, però è molto interessante come concetto. Ve lo spoilerò, quindi se volete giocarlo, andate a giocarlo, trovatelo, non so come, su internet, dura veramente poco, e poi tornate al podcast. È un gioco che dura... No, veramente, è brevissimo e interessante. Ok? Mm-hmm. Ora ve lo spoiler. Il gioco è praticamente una tastiera, che è come la vostra, quindi sono dei tasti che ogni tanto si illuminano di rosso, e se premi il tasto corrispondente, torna verde, o diventa verde se prima era bianco. L'idea è che ognuno di questi tasti, che tra l'altro non hanno le lettere, quindi non è facilissimo ricordarsi, ma questa è la F, questa è la G, ognuno di quei tasti corrisponde ad un sistema di un'astronave tipo, o di una nave, e il tuo obiettivo è mantenere la nave stabile, mantenere tutti i sistemi appunto nominal, ovvero funzionanti in maniera normale, finché la nave non è completamente evacuata, perché c'è qualcosa, c'è una crisi di cui non si sa bene l'origine. Tutto qua. Il bello è che nel gioco tu vedi il contatore dei passeggeri che scende durante tu, appunto, questi tuoi sforzi, finché non arriva uno. E tu, se sei un idiota come me, stai lì per 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti e fai, ma che cazzo sta questo qui che ancora non scende la nave, finché non realizzi che eri tu l'ultimo rimasto su quella nave che ti stavi un po' sacrificando, e quindi l'ultima cosa che devi fare è smettere di giocare e morire, essenzialmente. E se questa non è arte, no, vabbè, non è no, invece ci sta assolutamente, anche qua è un molto piccolo, molto semplice, per dare un concetto che molto spesso uno qua non se ne rende conto. Qua è, anche qui non si può dire che cosa devi pensare quando giochi un gioco di questo tipo, perché il punto è appunto che dovresti giocarlo e poi vedere tu stesso cosa ti fa pensare. Puoi smettere. Smetti di giocarci. Si gioca di merda. Parlando di giochi in cui poi devi smettere di giocarci, effettivamente un altro paio di titoli che volevo citare, che ho conosciuto Pokémon? Tramite... Molto minimalista, effettivamente, riflessivo come gioco. Ma no, un paio di titoli che ho scoperto guardando un video molto interessante su YouTube. Uno che si chiama Ancient Greek Punishment. Ok. Punishments, probabilmente. Una serie di minigiochi, se così si possono definire, bla, riguardatevi il titolo della puntata, che rappresentano quelle punizioni di cui si parlano nei miti grechi, come ovviamente non mi sono studiato i nomi dei personaggi, ma c'era quello che spingeva il sasso sopra su una salita per poi lasciarlo cadere e dover ripetere tutto di nuovo, no? Quei classici cicli di punizione senza fine che il giocatore appunto può provare sulla sua pelle in questo piccolo gioco, e che di nuovo probabilmente ti fa anche un po' riflettere, ma non sono io che voglio rovinarvi la riflessione dicendovi cose di questo tipo. Un altro molto carino è Execution, dove tu sei un caporale, un capitano di un plotone di esecuzione che deve dare l'ordine a un certo punto di appunto condannare un prigioniero di guerra, se ho capito bene. E anche qui un altro di quei giochi che vi posso solo dire giocatelo, perché non si può spiegare che cosa di particolare senza rovinare il tutto, per cui prendetelo. E infine, giusto per restare un po' più nel nostro bel paese, siamo tornati, vorrei dare il nome di un, e qua leggo dalla loro pagina di Wikipedia, un collettivo di programmatori milanesi nato nel 2004 che realizza videogiochi in flash di satira e provocazione politico-sociale chiamato Molle Industria. Che appunto un sito di giochi flash, tutti molto brevi, tutti molto rapidi. Alcuni che stanno in questa categoria di minimalismo, altri che magari vanno un po' più appunto nella seconda categoria di esperienze interattive, ma tutti parecchio originali e molto spesso con chiavi di lettura interessanti, mettiamola così. Di nuovo, qua non si può spoilerare troppo, perché si rovina l'esperienza. Per cui guardateli, sono tutti gratis online, sono giochi molto brevi. Ok. Io penso di aver detto tutto per la prima categoria, no? di questa classificazione che abbiamo voluto fare. Ok, parliamo della seconda. Parliamo allora appunto delle abbiamo definito come esperienze. Ho detto nella prima definizione era che erano leggermente più interattive dei giochi minimalisti, ma erano comunque più esperienze che i giochi. Ecco qua, io aggiungerei soltanto che, come dicevo prima, alcuni giochi come, che cos'è che stavo dicendo prima? Kids, no, non era Kids, ci ho dimenticato, perfetto. Perfetto. E, dicevo, sono magari quei videogame che si allontanano un po' di più da quel concetto minimalista da opera d'arte, come dicevamo prima, e rimettono dentro un po' di quei tratti caratteristici del videogioco in sé per sé, no? Ci sono a volte obiettivi, ci sono delle strutture narrative più complesse con finali alternativi, con branching path, no? Come vari bivi sul percorso, e che magari hanno anche delle meccaniche interessanti e, sotto un certo punto di vista, più complesse di un semplice clicca un pulsante o non so, muovi il mouse, per così dire. Ed è una delle categorie un po' più grandi, no? Quelle che tra cui metterei anche il titolo che dà il titolo che dà il titolo a questo episodio, ovvero The Stanley Parable. Okay. The Stanley Parable penso sia un perfetto esempio di videogioco, perché questo io lo definirei già più come forse videogioco vero e proprio, nel senso con un obiettivo, con finali alternativi, ma che si distacca molto dalla classica forma di gioco che abbiamo tutti un po' in mente. The Stanley Parable è appunto la storia di quest'uomo, Stanley, un impiegato di un ufficio che a un certo punto, in una giornata che sembra una giornata come le altre, si ritrova in una strana situazione dentro l'ufficio dove lavora. Ed inizia a sentire questa voce narrante che appunto narra le azioni che Stanley sta facendo in quel momento. Fino a che il giocatore a un certo punto può rendersi conto che non deve per forza seguire questo narratore onnisciente, ma può metterci del suo in questa esperienza, appunto. Quando è uscito ha fatto parecchio scalpore, è stata una di quelle, come dire, uno di quei titoli che tra l'altro è nato come mod di Half-Life 2, se non sbaglio, e che poi appunto per acclamato dal pubblico è stato poi sviluppato come gioco a sé stante, ed è stato un titolo di assoluto rispetto, cioè non so che altro posso aggiungere di nuovo, perché come faccio a spiegare sempre in questi episodi in cui ci sono i titoli in cui dovete giocarlo voi per capire un po' cosa si sta parlando veramente in questo caso. Cosa si può dire, Jacopo, di più? Stanley Parable è un chiaro esempio di, cioè, come posso dire? Scheomorfismo. Di scheomorfismo, grazie. No. Ci mancava in questo episodio lo scheomorfismo. No, è la dimostrazione che nei videogiochi fare comicità è possibile, ancora più che fare narrazione, cioè metanarrazione sui videogiochi, no? È un videogioco che parla dei videogiochi, che parla della narrativa interattiva, del fatto delle scelte, dell'assurdità di avere, diciamo, uno scenario che è autoriale, tra virgolette, cioè che qualcuno ha creato, ma c'è qualcuno che lo sta giocando, che lo sta esplorando come fosse suo. è un casino, è veramente un casino stare parabole, è pieno zeppo di questioni, di cose, di scherzi, di prese per il culo, di battute, di situazioni assurde. È veramente un gioco da giocare, è veramente uno di quei giochi da provare, da fare un'esperienza. Questo va anche detto che dura un po' di più dei giochi minimalisti, infatti sì. È per quello che non l'abbiamo messo tanto in quella categoria, perché è un videogioco più... Non è minimalista, è più completo, è un'esperienza che può durare anche alcune ore, che non per questo è meno interessante, però. Il tizio che l'ha fatto, che ha fatto The Story Parable, ha fatto anche un seguito, che adesso non mi ricordo. In realtà, vabbè, ci sono più tizi. Uno dei tizi che ha fatto The Stanley Parable ha fatto... capito, sì. Sta sfuggendo anche a me il nome. Che è praticamente, si chiama The Beginner's Guide su yes. Steam. E è molto, anche quello molto interessante, però è ancora più personale come storia, nel senso che parla... di una relazione probabilmente fittizia tra questo, diciamo, creatore, questo designer e un altro, e di come è difficile da spiegare, dell'espressione delle varie vicissitudini della sua vita, della sua evoluzione come creatore, come artista, come qualcuno che si esprime tramite questo mezzo, di come si è evoluta quella, ma anche la loro relazione. Ed è devastante. Cioè, a me è devastato come esperienza. Però anche quella è un'esperienza interattiva, non è un gioco completo. Però non è neanche minimalista, perché anche lì c'è una storia, c'è una narrazione, ci sono cose un pochino più complesse da fare. E questo è un po' tutto vero per tutti quanti i simulatori di camminata, perché tutti quanti, quindi... come posso dire? What Remains of Edith Finch... The Vanishing of Ethan Carter, cioè se poi ci fate caso, in quasi ogni titolo c'è una persona, perché si parla di una persona in realtà, dell'esperienza di quella persona, della sua vita, ed è più facile farlo quando non hai la pressione di doverla rendere una cosa piacevole, un'esperienza piacevole. Se l'obiettivo non è divertirti, se l'obiettivo non è adesso mi guardo questa serie TV perché così passo del tempo e mi diverto, puoi prenderti la libertà. Una volta che hai stabilito con il giocatore che questa non sarà un'esperienza piacevole, che questa non sarà qualcosa che fai, non so, come può essere Dark Souls, no, Dark Souls è esperienza. Pessimo esempio. No, vabbè, un gioco che giochi per divertirti, no? Non è un Tetris, non è un Overwatch, non è un quello che giocate voi per divertirvi, insomma. Ma è qualcosa che dove hai bisogno di accendere un minimo il cervello ed essere pronto a provare emozioni un po' più complicate. Una volta che questo è accettato dal giocatore, puoi fare cose strane, tipo un minigioco dove mozzi la testa a dei pesci e improvvisamente stai giocando a un gioco fantasy dentro la mente di un tizio che vuole scappare dalla sua realtà mentre taglia la testa dei pesci. Cioè, ci sono momenti super, super impressionanti e super molto potenti in questi simulatori di camminata, che mi dispiace un po' siano classificati solo come simulatori di camminata, perché fanno tante altre cose in quei giochi, insomma. Ci sono anche meccaniche a volte. Però la meccanica prevalente magari appunto non è quella che ho detto adesso, non è mettere in ordine delle sequenze di avvenimenti, non è dei puzzle per aprire una porta, ma è appunto camminare, ascoltare, leggere e avere un'esperienza di quel mondo interattiva. Però sì, sono un po' come delle avventure grafiche senza puzzle, diciamo così, secondo me. Ci sta. Questi sono quelli che mi sono rimasti più impressi. Se siete a vostro agio con la visuale in prima persona, nel senso che non vi è troppo scomoda, riuscite un po' a aggiustare, perché so che molti non ci riescono, nel senso, per molti è fastidiosa, può dare mal di testa, eccetera. In realtà non penso che quelle persone stanno ascoltando questo podcast, però se vi va, provateli. Perché Gone Home mi ha distrutto emotivamente, anche il Finch, i Tank Carter un po' di meno, ma sono comunque già dei gioconi. E Starly Parable mi fa collassare, cioè ci ho giocato ore, con una quantità di ore indicibili. Indicibile. C'era un altro gioco in realtà di questa categoria, che è pure abbastanza simpatico, dall'altro creatore di Starly Parable, che tu hai scritto e che mi ero completamente dimenticato, proprio completamente, che è Dr. Lampiston Tiger and the Terribly Cursed Emerald. Esatto, tu lo ricordi meglio di me, perché... Io in realtà sì, l'ho giocato neanche troppo tempo fa, ed è un'altra esperienza estremamente particolare. Ricorda molto alla Stanley Parable, nel senso che ci sei tu, giocatore, che più o meno guidato da questa voce narrante procede all'interno di questa, tra virgolette, simulazione, in questo ambiente, perché la storia sarebbe che tu sei un giocatore che sta aspettando di giocare questa avventura interattiva che si chiama Dottor Langenskov, la tigre e lo smeraldo terribilmente maledetto, ma il gioco crasha un attimo e adesso tu stai tipo nel dietro le quinte di questa avventura, di questa come nel retro, sì, appunto nel dietro le quinte di uno spettacolo teatrale, e ti ritrovi tuo malgrado a dover aiutare a mettere in scena questa esperienza per il giocatore che viene dopo di te. Per il giocatore successivo. Tra l'altro, se non sbaglio, mi sembra sia stato fatto. Non era della casa. C'era un altro gioco. Aspetta, No, non era quello, ma dicevo, era stato fatto da. Non dalla Adult Swim, però quelli che hanno fatto anche il gioco di. Oh mio Dio, mi sta venendo. Aspetta. Internet, vienici in aiuto. Sconcendo? No, vabbè. Ecco, vedi, i developer sono Crows, no, oddio, non mi sta venendo la parola, vedi, non so neanche pronunciare corvo in inglese, Crows, uno studio che, se non sbaglio, aveva fatto anche quel gioco di quello che dava la voce a Rick e Morty. Era Accounting, no. Sì, era Accounting Plus, sì, okay. Sconcendo. Io quello dicevo. Ah, ok, perdonami. Cioè, allora. Sconcendo è la versione, diciamo, parodia, però sì, sono cross più... si chiama Squanch Games. Che tra l'altro è uno dei designer di Dr. Langenskov e ha lavorato appunto a The Stanley Parable. Ed effettivamente ricorda molto questa avventura, questo tuo viaggiare in questo mondo di gioco, e ogni tanto senza un vero obiettivo, vivendolo problema per problema oppure task per task, in questo piccolo gioco di ruolo, come un piccolo LARP, no? Un live action role playing, in cui tu ti ritrovi a dover fare appunto il manutentore nel dietro le quinte di questa esperienza. Tra l'altro poi era stato narrato, la voce narrante era di un tipo famoso che mi sta... Ma dici sempre questo qui? Di Dr. Langenskov, sì. Il narratore si chiama, non è lo stesso di coso? Vabbè, lo metteremo, cercatelo voi, non sto trovando in questo momento, ma vabbè, niente, non è così importante. Era per dire, è il genere è molto più commedia questa, piuttosto che esistenziale, se può esistere come tale genere di The Stanley Parable. Questa è molto più una commedia ed è molto carino. Anche questo dura una ventina di minuti, credo, non tantissimo. Se vi capita, penso sia anche gratis su Steam o che costi praticamente nulla, quindi mi conviene provarlo. E oltre a questo avevo messo anche un altro gioco che ti avevo consigliato qualche tempo fa, che metterei assolutamente in questa categoria, che si chiama Just Punk. Sì, l'ho giocato. L'hai giocato alla fine, quindi mi ricordavo bene. E anche per Just Punk, questo forse è un altro di quei titoli che si allontana ancora di più dall'essere l'esperienza interattiva di questo tipo. È molto più giocoso, molto più un gioco. C'è una storia, c'è una narrativa con degli obiettivi, delle side quest anche volendo, ma è comunque è talmente meta che non puoi metterlo, che non puoi non citarlo in questo episodio, perché è fuori di testa come gioco. In uno stile molto anni 70, credo, o 60 anche, può essere, tu ti ritrovi a fare una... a ricoprire i ruoli di un agente segreto in questo mondo abitato da strani pupazzi, quasi come se fosse uno spettacolo di burattini, non saprei come definirlo altrimenti. E in un insieme di battute fuori di testa, gag molto meta, come dicevo prima. Sì, alcune non proprio... cioè, alcune non arrivano... cioè, non fanno ridere, diciamo. alcune non sono neanche delle gag, sono semplicemente situazioni assurde che ti ci ritrovi in mezzo, giusto? Che non è tanto... non ridi tanto perché è divertente, ma è quella risata da... hai di fronte a te qualcosa di mai visto, inaspettato, e non sai in che altro modo reagire se non che ti viene da ridere. Questo è un gioco un po' più lungo, dura credo qualche oretta, 3-4 ore anche qua, ma che di nuovo, se vi capita, anche questo, no, questo... questo non era nel bundle della Double Fine, o era nel bundle della Double Fine? Esatto. È passato troppo però tempo. Sì, carino. Scusate, io ho la memoria corta e non mi ricordo se anche Jacopo ce l'ha. Però anche un po' al limite, è un po' al limite fra esatto. Un walking simulator e un vero e proprio gioco, perché ha degli elementi giocabili, tra virgolette, quindi un po'... Mi sono scordato di una prego. Cosa, così. Nella categoria precedente non ho incluso Engar. Ok. Che se voi al liceo o a scuola avete mai perso tempo a fare figure geometriche sul vostro quaderno, questo gioco vi farà impazzire. Perché è essenzialmente tutto un esercizio zen di disegnare figure geometriche. La musica è spettacolare, la ascolto ancora adesso, la soundtrack. È molto una soundtrack tipo molto persiana, molto medio orientale, molto figa. E il gioco è... per me ha avuto lo stesso effetto di guardare Baby Driver, il film, perché mi ha grattato un prurito che avevo al cervello. Guardate un trailer per capire, ma per favore giocate. Sto guardando adesso, molto figo. Perché a parte che su tutti quanti device possibili e immaginabili, iPhone, iPad, così. O almeno penso, perché come tipo di gioco si presta molto. Però sì, è veramente, veramente bello. Scusami, volevo interromperti perché mi sono ricordato. No, hai fatto benissimo. Ed infatti... adesso anch'io cito un gioco che avevamo accennato prima, ma che non stavamo riprendendo, appunto, sempre di O'Reilly, quello che ha fatto Mountain. In questa categoria, invece, nelle esperienze interattive, la metterei invece che minimalismo, in questo caso perché di minimalista non c'è niente in questo gioco, a partire dal titolo, perché nel titolo c'è tutto, letteralmente. Il gioco si chiama Everything, ovvero... tutto quanto. Un'altra esperienza estremamente... io sto troppo la parola particolare in questo episodio, però unica, di nuovo un sinonimo, perché generale. È una cosa assurda anche questo, perché tu ti ritrovi in questo universo, nel nostro universo, a prendere possesso della forma di tutto ciò che trovi. Inteso che ogni singolo oggetto, ogni singola entità, dall'atomo di idrogeno alla galassia, alle galassie nello spazio, possono, ne puoi prendere appunto il controllo per interagire con tutto ciò che sta nell'universo. Io non, meglio di così non posso fare nella descrizione. Questa è veramente un'esperienza, nel senso che ci sono momenti in cui dici, ma che cazzo sto facendo con questa roba tra le mani? Non c'è un obiettivo, non ci sono quest, non c'è una vittoria, una sconfitta. È solo uno strano... Anche qua forse questo potrebbe stare anche un po' nella quarta categoria. È quasi un giocattolo. Ma è un giocattolo così particolare che è così, non, finirà che... mai, non finirà mai per terra come in Toy Story. No, è veramente un gioiello. Secondo me ha qualcosa che Getting Over It non ha. Perché Getting Over It secondo me ha troppa cattiveria. Per quanto sia divertente vedere gente che ci si incazza, Everything è più catartico, è molto più good vibes. Cioè tu ci giochi, fai il cazzo che ti pare e ogni tanto Alan Watts ti parla all'orecchio e ti dice cose. È vero, mannaggia. Mi ho dimenticato degli spezzoni di Adam Watts. Adam Watts, sì, è come vuoi definire? È una personalità molto eclettica, molto strana. Molto particolare, è la parola che stai cercando. Che è una filosofia, secondo me, che più passa il tempo più si rivela essere vera. Cioè che, essenzialmente, da quello che ho capito, noi non siamo diversi da una roccia o un pezzo di erba o... È un filosofo che ha 200 miliardi di cose riinterpretate e rimischiate, tipo buddismo, taoismo, induismo, eccetera. Induismo, si dice. È diventato famoso, secondo me, principalmente per questo, per essere uno con tutto. Cioè, una cosa unica con l'universo. Che è quello che siamo, cioè noi siamo solamente una parte di universo che pensa di essere separata dall'universo, di avere una coscienza e un'individualità, ma in realtà non è vero. Ora mi fermo perché questa cosa sta diventando troppo personale e troppo sappio, quindi ora basta parlare di Alan Watts. Che altro abbiamo nella lista? Io penso che abbiamo detto praticamente tutto di questa categoria, di questa seconda categoria. E no, sto dimenticando qualcosa o abbiamo detto anche tutto di questa? Io non ho altri titoli da aggiungere. Ah no, non è vero, ne ho trovato uno che non avevo visto e tra l'altro era in cima alla lista. Un ultimo titolo che vorrei citarvi e che di nuovo anche questo gratis su Steam. E di nuovo un'esperienza molto particolare, che si chiama Don't Make Love. Don't Make Love è un'avventura grafica, è una visual novel praticamente, perché lo è, però tu all'inizio è un discorso, una discussione tra queste due mantidi religiose che devono decidere qual è il prossimo passo nella loro relazione, mettiamola così. Io l'ho giocato, l'ho un po' in realtà, perché bisogna dirlo, è estremamente complesso in quanto scenari e esiti di questa discussione, e soprattutto utilizza una meccanica che ha veramente impressionato, cioè che non ci sono frasi fatte o scelte di dialogo tra cui scegliere, appunto, ma sei tu che devi scrivere le domande nella chat, nel laboratorio testuale del gioco, e quindi, come dire, una delle libertà più assolute che abbia visto finora in un sistema di dialogo come questo. E anche qui, anche qua siamo un po' al limite tra... non è vero, no, questa è un'esperienza interattiva, non è minimalista. Perché? Perché, stavo per dire minimalista, perché alla fine tutta l'esperienza si racchiude in questo dialogo, no? Come quest'unica cosa, questo dialogo. Però è talmente complessa che... non lo so. Forse metterei anche qua un po' sul limite delle due, tra minimalismo e esperienza interattiva. Come dicevo, gratis su Steam, e non aggiungo altro perché sì. Devo giocarci. Vi consiglio anche, se si volete farvi del male, di recuperare Facade, che è un gioco sperimentale di molti molti anni fa, dove appunto c'era questa meccanica di interpretare quello che scrivevi con la tastiera. Però è davvero, davvero... può essere potenzialmente triggerante. Nel senso che la storia è che tu sei questo amico di questo tizio che ti invita a cena a casa, però la sua relazione, insomma, di questo tuo amico con la sua moglie è, come dire, un po' in difficoltà. E cercano di metterti in mezzo alla loro discussione, di farti domande per vedere da che parte ti stai schierando. Ed è molto, molto, è una cosa molto, molto imbarazzante e come dire, scomoda. Mi ha fatto molto, molto strano giocarci, e mi ha fatto molto cringe. Comunque, vabbè. Ok, io penso adesso veramente di aver finito con esperienze narrative, okay. Almeno fino a questo punto. Vabbè. La terza categoria di virtual reality invece la lascio a te, perché penso che tu abbia molto più esperienza in questa categoria rispetto a me. Tu hai effettivamente un visore per la realtà virtuale, quindi forse puoi, al contrario del sottoscritto, quindi forse dicevo puoi appunto conoscere qualche titolo in più di me. Allora... diciamo che ci sono giochi in realtà virtuale che sono dei veri e propri giochi, quindi li lascerei perdere, tipo Half-Life Alyx, eccetera. Certo. Quello su cui mi concentrerei è roba tipo appunto Accounting Pass, che è quello che dicevi prima, in realtà virtuale della Cross e Squanch Games, fatto dal tizio di Rick e Morty, quindi la comicità potete immaginarla. È un gioco che non richiede molto da te ed è tutto quanto appunto una commedia. C'è, perché voglio metterlo in contrasto con un altro gioco che hanno fatto, che è Trevor Saves the Universe, tipo, che invece è molto più un gioco vero e proprio, no? Un platform, un hack and slash, puzzle, eccetera. Certo. Mentre questo è più tipo, devo in questo contesto fare una cosa molto semplice, tipo prendere la cornetta, mettermela all'orecchio, e questo, diciamo, contesto va avanti. Questo... è tutto un gioco, è tutta una commedia, insomma, tutto così. Simile, discorso simile è Job Simulator, anche se richiede un po' più di abilità, però comunque la stessa cosa, ci sono situazioni strane, macchinari strani, e tutta la comicità è basata sull'interpretazione che hanno questi robot dei lavori umani, essenzialmente, di come funzionano gli umani, che è tutto molto sbagliato. E anche questo è un gioco comico. È interessante quanti giochi comici ci sono nella realtà virtuale rispetto ai giochi normali. Secondo me è perché i giochi solo recentemente hanno capito che la comicità, molto della comicità è tempismo, e l'unico modo per aggirare il fatto della libertà che dà il giocatore in un gioco e del tempismo necessario per una comicità è dare le chiavi della comicità al giocatore, che è una cosa geniale, secondo me, perché un gioco stupido come Goose Game, che tra l'altro non è un'esperienza, perché è un puzzle game alla fine, non è solo un'esperienza interattiva. Mm-hmm. Però è comunque comico perché hai tu il potere di fare quack quando ti pare. Cioè, che sembra una cazzata. Bellissima questa frase. Cioè, sembra una cazzata, ma esatto, cioè, hai il potere di generare comicità quando vuoi tu. Non solo sei uno stronzo, cioè il gioco proprio ti mette nelle condizioni di essere un pezzo di merda, come essendo quell'oca di merda, però cioè, ti dà anche un bottone per starnazzare, che è geniale. È geniale, non ha nessuna... Cioè, ok, ha delle applicazioni di gameplay, piccolo spoiler, come anche tipo il fatto di muovere le ali e così, però c'è un pulsante per starnazzare, è geniale. Comunque, ok, vabbè. parliamo di VR, realtà virtuale, quindi abbiamo accanto il mio Jump Simulator e abbiamo tanti altri giochi dove tu l'unica cosa che fai è essere in questo universo tutto intorno a te, e non è come magari nei simulatori di camminata dove devi andare avanti, seguire la storia e basta. Qui hai anche spesso delle cose che devi fare con le mani, hai quasi una interpretazione, hai un ruolo. È come se fosse improv, no? Cioè tu hai delle improvvisazioni da fare. Non so se avete mai visto Buona la prima, tra virgolette, di Ale Franz, tantissimi anni fa. Però è così. In America è improv, ovvero cioè ti viene dato un prompt, appunto, un contesto, qualcosa da fare, e devi recitare una scena che si crea sul momento, no? Mm-hmm. Vi consiglio di andare a vedere su Netflix Middle Teacher Schwartz, che è uno speciale di Netflix, sono tipo 3 episodi o 4, non mi ricordo, dove ci sono appunto questi due comici, Middle Teacher e Schwartz, che se non li conoscete sono uno che è quello di Silicon Valley e l'altro è John Ralphio, per chi lo conoscesse, molto bravi, dove chiedono al pubblico: ah, cosa fate qui? Tipo, non so, ah, tu c'è un matrimonio, ok. E poi fanno, in base a quello che dice il pubblico, creano una scena comica. Non è divertente quanto magari uno spettacolo comico fatto, preparato bene, ma sapendo quello che è successo, ovvero che loro lo stanno creando sul momento, lo rende un'esperienza quasi interattiva. O meglio, tu stai partecipando quasi, sei con loro quel palco, perché hai anche tu difficoltà a ricostruire tutto quello che è successo e a capire dove andare. Non so se mi sto spiegando bene, però essere nella realtà virtuale, avere la responsabilità di dover muovere la trama, è una pressione più grande, perché tu sei lì dentro, cioè tu sei un attore che non sa la prossima battuta a volte, e i giochi migliori sono quelli che riescono a non farti perdere troppo tempo, a farti capire immediatamente, intuitivamente, ah, questo è quello che dovrei fare, o almeno ti aiutano, come nei migliori giochi, con un feedback a capire quello che non devi fare. Quindi a Counting Plus le cose più belle, le cose più divertenti sono dare fastidio al gioco che vuole che tu faccia una cosa e tu non la fai, e il gioco ti insulta, che dici: che cazzo stai facendo? Perché è fantastico. Quindi secondo me per quel motivo anche funziona molto meglio in realtà virtuale la comicità che in altri giochi, ed è un'esperienza diversa rispetto a quelle esperienze interattive che abbiamo detto prima. Purtroppo non mi vengono in mente molti altri esempi, sicuramente ne ho giocati tantissimi, un po' qua, un po' quando stavo in Islanda, e il problema è che arriva un certo punto in cui tu devi sforzarti talmente tanto che diventa un puzzle game, diventa qualcosa tipo Batman, tipo, capito? Cioè diventa una cosa un po' troppo poco via, cioè sì, essenzialmente, cioè, diventa troppo complicata. Tipo I Expect You to Die è comico, è una parodia di James Bond, ma è anche James Bond, nel senso, tu devi risolvere degli enigmi, devi fare delle cose, non è solamente come città o paradia. Certo, tu dici, sempre per fare il discorso di prima, non hanno tolto abbastanza da lasciare solo quel significato, no? Quel qualcosa che non è un gioco e quindi è tornato ad essere un gioco. Sì, sì, esatto. Quindi in VR ci sono sia queste esperienze qui, che sono diciamo un po' a metà, sia dei veri e propri giochi, che sono a quell'altro estremo, sia dei software tipo Google Earth, no? Che semplicemente tu, cioè, è Google Earth. Diciamo che c'è, secondo me, uno step tra questa categoria e la prossima. Ovvero ci sono dei giocattoli in VR. Ovvero, per esempio, The Lab, secondo me, è un po' un giocattolo. The Lab è una collezione fatta dalla Valve, che sono quelli, vabbè, di Half-Life e appunto del Vive, dei visori VR, eccetera. E in questa raccolta hai tantissimi giochi, tipo appunto un gioco con una catapulta, un gioco con una freccia, un arco, tantissime cose. Il mio preferito in realtà non è nessuno di questi, è nell'area iniziale c'è una lavagna, hai dei pennarelli e funziona. Che è una cazzata, dici, però è questa libertà e questo senso che puoi fare tutto, anche una cosa così stupida come disegnare su una lavagna con dei pennarelli, e la sensazione di essere lì. Quindi quando ti cade un pennarello lo raccogli, oppure per sbaglio lanci il cancellino sulla lavagna e ti rimane l'impronta cancellata. Cioè, è incredibile. È veramente incredibile. Questo per riconnetterci alla prossima categoria, che sono i videogiocattoli. Assolutamente. Volevo fare il segue. Se non sbaglio c'è anche quel programma di painting tridimensionale in realtà virtuale, come si chiama? Cazzo, quello di Google. Tilt Brush, che direi che è un altro bello, ottimo candidato per questa categoria, no? Diciamo tra la 3 e la 4, che stavamo per introdurre, nella quale riprendo un po' il microfono, perché è strano come questo programma, che è nato come software, è il paint della realtà virtuale, cioè quel programma da disegno, però allo stesso modo in cui io da bambino ci perdevo delle ore a fare le stronzate su paint, a colorare quelli che secondo mia madre erano dei capolavori, anche in questo programma, che è fatto per persone anche un po' più addette ai lavori, si possono trovare video di gente che ci perde le ore a divertirsi a creare questi disegni in tre dimensioni e a trovare il gioco in quello che non nasceva come gioco, no? Ed è proprio a questo che mi riconduco nella quarta categoria, quando dico che i giochi in cui siamo noi a trovare il gioco, ma il gioco non esiste da prima, sono quelli che io chiamo videogiocattoli, no? Abbiamo citato Minecraft per l'ennesima volta, in cui i giocatori bla bla bla bla fanno il gioco da loro, e stavamo appunto pensando, no, nelle varie cose da dire in questo episodio, se ci fossero altri software, altri videogiochi di questo tipo, appunto. L'unico che mi era venuto in mente era Gmod, devo essere sincero. Ok. Io avevo pensato a quello, perché Gmod, che diminutivo di Garry's Mod, giustamente, Garry's Mod, che forse anche il pubblico che non ha così tanta esperienza nei videogame ha almeno sentito citare, perché c'è stato un periodo in cui spopolava su YouTube, c'erano video su video di gente che giocava a Gmod, e appunto questa mod per Half-Life 2, se non sbaglio sempre, in cui non lo so, cioè semplicemente potevi spawnare oggetti di gioco, era tutto molto basato sulla fisica, quindi si potevano creare quasi dei meccanismi, delle specie di macchine di Goldberg, no, Sì, si chiama così. Oh, sto avendo un crollo mentale. Ed è spopolato, ha fatto impazzire la gente perché era divertente poter manipolare questo ambiente fisico quasi come se fosse una piccola realtà virtuale quando ancora non c'era la realtà virtuale, no? Mm-hmm. E poi da lì sono nate mod, a partire da questa mod, che sono di nuovo spopolate come TTT ed altre cose di questo tipo, per cui dal videogiocattolo sono stati creati veri e propri giochi, no? Questa ulteriore scusate, prima o poi smetterò di ripetermi. Quindi io ho trovato quello come esempio lampante di altra di un altro videogiocattolo. Tu avevi pensato a qualcosa o alla fine la categoria è più piccola di quanto non pensassimo? No, no, cioè ce ne sono pochi, secondo me, di giochi che sono davvero, perché anche Minecraft con il tempo è diventato survival. Certamente. Non è rimasto modalità creativa. Garry's Mod col tempo è diventato, con Garry's Mod puoi giocare a tavola intera di stone, approppando a queste modalità così che sono nate lì dentro. Cioè, è raro trovare un gioco che è rimasto, tra virgolette, fedele alle sue origini di giocattolo, di qualcosa che è solo... espressione creativa. Alcuni giochi ci sono nati in realtà con questo qualcos'altro, cioè tu hai degli strumenti creativi ma fin da subito hai una specie di obiettivo per avere una specie di ispirazione, come Besiege tu hai un toolset che è, puoi costruire delle macchine medievali ma l'obiettivo è fare questi livelli. Ora, è vero che con il tempo è diventato tutt'altro, quindi c'è gente che ci si diverte a farci tipo Robo Wars, cioè si è evoluto ed era fin da subito qualcosa di più che appunto un gioco con una campagna, una storia, ma in generale di solito appunto sono giochi che ti permettono, cioè, ti danno degli strumenti per costruire qualcosa e non si aspettano, secondo me, che tu li usi per qualcosa che non sia cazzeggiare, secondo me. perché no, davvero, cioè i giochi secondo me che falliscono, questi qui che hanno queste modalità o che nascono così, tipo Project Spark, che a questi tempi si chiamava tipo Kuro o Kudo, non mi ricordo, che sono delle, come fossero dei software di sviluppo di videogiochi ma meno complicati, che quindi hanno un po' come erano gli editor di mappe un po' semplificati, tipo quelli di Halo 3, eccetera. Sono giochi che ti semplificano molto lo sviluppo, ma secondo me si aspettano troppo, si aspettano di avere... C'è una linea non ben definita, ma c'è, tra un gioco e un software per fare giochi. Quando passi da una linea all'altra, rischi di far perdere interesse, secondo me. Sì, penso di capire cosa tu voglia dire. Non so se mi sto spiegando bene. Quindi i videogiocattoli ci sono, ma spesso finiscono per cadere un po' in una delle due categorie, come se fossero delle palle in bilico, che non sanno da che parte cadere, il famoso uovo in cima a Monte Bianco, depositato da un gallo. In realtà lì la vedo più, io la vedo anche un po' come che a un certo punto come dire, fanno anche queste modalità in più, come dicevamo, la survival per Minecraft, TTT in Garry's Mod, però anche lì TTT in Garry's Mod, se non sbaglio, è stata una cosa inventata dai giocatori stessi, sono giochi che creavano loro all'interno della mod. Questo penso che l'esempio più lampante sia più la survival per Minecraft, in cui si sono accorti che c'era chi riusciva a giocare con quel giocattolo, ma hanno fatto quel qualcosa in più per anche quelle persone che magari erano un po' meno giocose rispetto alle altre. Io mi ricordo che effettivamente Minecraft l'ho conosciuto con la modalità survival principalmente, e io della modalità creativa non ho mai fatto veramente un grande uso, per cui hanno sfruttato quel qualcosa che avevano già, che nasceva come giocattolo, e poi ci hanno fatto anche il gioco, praticamente. È un po' come, ritornando un po' anche a uno degli episodi precedenti, come quando chi ha inventato il cubo di Rubik non si aspettava che poi ci fosse tutta l'associazione che faceva le gare a chi riusciva a completarlo più rapidamente. O... Beh, quello doveva aspettarsi, invece... secondo me, cazzi suoi. Vero. Solo doveva aspettare. No, però sì, ho capito che intendo. Quindi sì, è stata un'evoluzione, sia a volte spinta, a volte naturale, del fatto stesso di essere un giocattolo, diciamo così. Per me Dreams farà un po' quella fine, cioè il problema di Dreams è lo stesso di Project Spark, è lo stesso di quell'altro, è che finirà per essere qualcosa di troppo... Non conviene usarlo. Cioè è bello, per carità, è fenomenale, è fatto benissimo, è tecnicamente avanzatissimo, c'è un sacco di cose interessanti sopra, ma... Non lo so. È davvero troppo troppo vicino a un software per creazione di videogiochi. Quindi per me tra le due opzioni è meglio finire nell'altra. È meglio riavvicinarsi ai videogiochi, avere qualcosa di più giocoso che non più serio. Vabbè, questo qui. Volevo fare un po' di... se abbiamo finito, se non hai altri videogiocattoli. Non ho altri videogiocattoli. Aspetta, tu cosa volevi fare? Dimmi prima tu. Volevo fare una specie di honorable mentions, tra virgolette. Guarda, mi hai letto nel pensiero, stavo dicendo non ho altri videogiocattoli, ma volevo fare la quinta categoria, quella del spettacolo del miscellanea, no? Del non sappiamo bene dove mettere sta roba, però ce la mettiamo comunque. Quindi, parte pure, che mi sembravi che fossi bello carico per questa categoria. Volevo fare, ho scritto qui, mi sono appuntato due giochi che sono molto simili visivamente e anche secondo me come potenza artistica: Quadrilateral Cowboy e 30 Flights of Loving. E particolarmente vi invito a giocare a 30 Flights of Loving perché è un esempio di un gioco che mi ha sconvolto, perché ha introdotto un elemento di linguaggio del cinema che non è mai stato usato nei videogiochi. Ovvero, nei videogiochi c'è una specie di regola non detta che se un giocatore sta giocando non puoi disorientarlo, non puoi togliergli il controllo senza che lui accetti il motivo, senza che gli sia chiaro cosa è successo e perché hai tolto il controllo. Vi faccio un esempio. Se io sto giocando e sto aprendo una porta in un gioco, in un Resident Evil, mettiamo, e parte un filmato, di solito c'è appunto cambio di prospettiva, magari il rapporto visivo cambia, quindi passa da 16 noni a tipo quello più stretto, non mi ricordo quant'è, 1,275 su 1, non mi ricordo. Mm-hmm. Quindi proprio si restringe, sono delle barre nere sopra e sotto, personaggi che si muovono in una maniera un po' diversa, cioè è chiaro che il motivo per cui non riesco più a muovere il personaggio è perché sta succedendo qualcosa di importante per la trama. È una regola non scritta. Se io non ho il controllo, c'è un motivo. Cioè, adesso mi spieghi perché, perché altrimenti io penso che il gioco si sia rotto. Diciamo. Certo, certo. Se io sto correndo lungo un corridoio e improvvisamente mi ritrovo alla fine o mi ritrovo in un'altra parte della mappa, io penso che sia un glitch. 30 Flights of Loving lo fa così, con una facilità talmente disarmante che diventa aspettata, diciamo, come cosa. Perché sì, è la regola dello smash cut, cioè tu hai un montaggio di scene messe insieme dove tu stai giocando prima e dopo, cioè non è un filmato dove quasi ti aspetti che ci siano cambiamenti di telecamere, di prospettiva, cioè tu stai guardando, stai correndo lungo un corridoio e improvvisamente sei da un'altra parte della stessa mappa, ma tu sai cosa è successo, cioè il gioco non è che ti butta in mezzo a un contesto completamente diverso, è lo stesso contesto, semplicemente tu sai intuitivamente che sono passati alcuni minuti. Non lo so, è una cosa semplice da descrivere, però mi piace un sacco perché ha cambiato la mia percezione della cosa. Non so come dirlo, ha cambiato il linguaggio dei videogiochi, ci ha aggiunto un elemento cinematografico che non veniva usato prima. Ci sta. Bello, carino, questo non l'ho mai provato, lo proverò assolutamente. Invece io non lo so, ero incerto su che cosa dire in questa quinta categoria, perché questo episodio, e non è l'episodio 28 che ci aspettavamo, almeno eravamo partiti con certe idee, eravamo partiti con certi momenti, giochi che non sono giochi, giochi che assomigliano a giochi, videogiocattoli, non sapevamo bene nemmeno noi che cosa metterci in sta cazzo di puntata. Ma avevamo buttato giù anche alcune cose che al momento non saprei bene in che categoria metterle, appunto, e non so se neanche rientrano più quasi in queste sì, in questo concetto che abbiamo cercato di estrapolare questa puntata. Però c'era quel pezzo di gameplay in Deus Ex che a me piaceva ancora tanto, però, e volevo citarlo prima o poi in un episodio, e non sapendo bene dove metterlo, volevo metterlo qua, perché usiamo come scusa che è un momento di gameplay che, come dicevi tu, ribalta un po' le aspettative del giocatore, come nel tuo 30 Flights of Loving. C'è questa tecnica di narrazione che tipicamente non veniva molto usata nei videogiochi. Vorrei citare una cosa molto simile in Deus Ex Human Revolution, nella parte di gameplay relativa al chip, al nuovo chip di... adesso non mi ricordo neanche più come cavolo si chiamava, però c'è una parte del gioco in cui al giocatore viene data una scelta e deve decidere se portare il protagonista che sta controllando, Adam Jensen, in una clinica per far installare appunto un aggiornamento di un microchip che ha installato nel cervello in questo gioco di appunto futuristico con cyborg, eccetera, eccetera. Ora, nello specifico, la parte di storia non è importante. Quello che è interessante è come il farsi installare il chip, il scegliere di interagire con questa parte di gameplay, sia la scelta sbagliata in questo caso. Cioè, una cosa che normalmente, no, almeno per come ci hanno abituato i giochi, non ci aspetteremmo, cioè quella di rifiutare il contenuto. Rifiutare in questo caso un upgrade, quello che potrebbe sembrare un upgrade o comunque un qualcosa che è stato appunto creato, è stato scritto da parte degli scrittori del gioco, è stato implementato dagli sviluppatori, è stato disegnato dagli artisti, e la scelta giusta in questo caso era non viverlo questo contenuto, non interagirci. E non so, quella piccola scena di gameplay che sinceramente rispetto a tutto il resto del gioco potrei anche definirla forse come la cosa più interessante del gioco stesso, perché alla fine Deus Ex Human Revolution, molto carino, interessante, ma non chissà qual è questo capolavoro che direi. Però non so, quella scena mi è rimasta talmente impressa che... Anche a me è rimasta impressa, Marco. È stato anche forse uno dei semi da cui è partita un po' tutta questa puntata, per cui ci tenevo a citarlo, facendomi odiare ancora di più da Jacopo. No, puoi svinire il podcast da solo, vero? Puoi fare da solo i prossimi 20 episodi del podcast. Basta. Adesso prometto qui solennemente che non citerò più quella scena di Deus Ex. No, tranquillo. A grido di sagrino. Si scherza. Siamo tutti amici qua. E niente, io penso di aver finito anche con la mia categoria a sé stante. Ok. E mi stai quindi dicendo che siamo arrivati al momento che tutti aspettano? Sigla. Kept you waiting, huh? Allora, Ecco, vedi, questo è un altro esempio di momento Kojima che non è un momento Kojima, perché non ce lo siamo preparato questo momento Kojima. No, allora, per me non c'era bisogno di prepararlo, perché questa puntata è dedicata a Kojima, in realtà. Kojima, se ci stai ascoltando, questo è per te. No, vabbè, per me questa puntata è in parte dovuta a quel momento di Metal Gear Solid 2 dove ti dicono di spegnere la console. Ah, perché anche quello è un grande nonno, è un grande non fatelo. Non puoi dire al tuo giocatore di spegnere la sua console, ma non perché sia una quarta parete sfondata, ma perché Jack, poi che fa? Non gioca? È impossibile, no, deve giocare, che fai? Il giocatore deve essere sempre accudito, deve essere sempre in controllo della narrativa, deve essere sempre consapevole di quello che sta succedendo. Per Kojima il giocatore è l'ultimo sfigato, non gliene frega un cazzo. Cioè, ok, così può sembrare che Kojima sia un fatto che non pensa mai al divertimento e alla godibilità dei suoi giochi, ed è vero. È vero, però, sto giù per dirlo io. Però mi piace perché ha un po' messo la pulce nell'orecchio a tutti questi sviluppatori, che ogni tanto è bene concedersi qualcosa per se stessi, no? Per qualcosa che hai da dire, non perché devi fare per forza un gioco che è brutto da giocare o che deve essere anti giocatore, anti consumatore, anti quello che vuoi, però ogni tanto, per il bene della loro anima e di quello che hanno da dire, magari fa anche bene parlare per 20 minuti di meme. Cioè è giusto, è un gioco, secondo me, Metal Gear Solid 2 che è stato quasi il precursore della cultura degli indie, che poi con Jonathan Blow, con Phil Fish, con questi qui, con Macmillan, è un po' nata, no? C'è stato questo quasi... c'è stata questa esplosione qualche anno dopo, intorno al 2006, 2007, 2008, quando uscirono quei primi giochi indie blockbuster. Quindi grazie, Kojima, per essere uno stronzo. E veramente, cioè, non sto scherzando, per me è il motivo per cui esiste questo gioco, cioè è uno dei motivi per cui siamo finiti in questa carreggiata, insomma, o perlomeno per cui ci siamo finiti in quegli anni. Non è da ignorare. Sicuramente ci sono tantissime altre circostanze, il fatto di nascere con un'industria che già è presente e ben avviata, il fatto di averla come cultura personale, il fatto di essere persone magari che hanno la possibilità di entrare in questo mondo, le risorse ma anche gli strumenti. Ci sono tanti fattori che contribuiscono a nascere di quelle cose che abbiamo detto oggi, mm-hmm. e ne abbiamo già parlato. Per me Kojima è una piccola parte anche di sta roba, di questo casino. Quel bastardo. Bastardo, pezzo di merda. Ci sta. Io mi permetterei anche giusto un pochino di citare in ultimo, prima di salutarci, un altro, secondo me, esempio che può ricadere molto nelle categorie di cui abbiamo parlato oggi. E io non so, pensando a questa puntata, a me viene in mente anche un po' PT. Bello, grande, grazie che l'hai trovato, che l'hai ripescato. Tu che mi dici, io lo metterei nella categoria di esperienza interattiva, quello, no? Perché non... che cos'è? È uno forse degli horror più puri, in cui non devi andare a sconfiggere gli zombie o cose così, semplicemente sei tu in una casa che stai cercando di dare un senso alla situazione, un po' come noi stiamo cercando di dare il senso a questa puntata da un'ora e 40, qualcosa del genere. Quindi sì, era giusto, ci voleva, dovevamo citarlo, perché è uno di quelli che appunto viene citato il meno di tutti, perché non è neanche un gioco, è un PT, un playable teaser, per cui così ci stava. Quindi siamo arrivati ai saluti? Dico bene? Ci siamo. Grazie a tutti per aver ascoltato un non episodio. Continuo con questa gag, non ce la posso fare, Iago. No, grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo che la puntata vi sia piaciuta. Io ero Marco. Io ero Jacopo. E continuate a giocare. Ciao ciao.